ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata della Fuga del Gatto, domenica 5 febbraio del 2017, sempre su Radio Wombat o Wombat Radio, come preferite. Qui con me, come sempre, c'è Virginia, che ormai è stata promossa co-conduttrice per il... Copilota. Sì, copilota, ecco che si dice anche meglio. E oggi vi vogliamo parlare di un personaggino affascinante, interessante, che è Dmitrij Shostakovich. Allora, vi dico subito che la mia conoscenza del russo è veramente pari a sotto zero, quindi la mia pronuncia sarà orribile e dirò delle cose bruttissime da sentire per chi invece sa il russo. Sì. Lo Però apprezzate l'impegno lo stesso, sforzo, per ecco, favore, è esatto. notevole, vi assicuro. Fate finta, ecco, come se. E in particolare di Shostakovich non ci interessa tanto fare tutta una retrospettiva sulla vita, su tutte le opere, anche perché insomma sarebbe veramente lungo e complesso. È un compositore che ha fatto tante cose, anche molto variegate, e secondo me tutte molto interessanti a loro modo. Ognuna di queste probabilmente varrebbe una puntata da sola. E noi ci interessa invece oggi parlare di uno stretto periodo. Certo, chiaramente faremo anche delle incursioni, degli accenni a periodi precedenti e successivi e un po' contestualizzeremo, però ci interessa parlare del periodo, quello un po' più travagliato, più complesso, sicuramente però anche il più interessante da studiare, che fu nella prima metà degli anni 30. Il periodo che lo vede di fatto contrapposto alla politica culturale e non solo culturale di Stalin. E perché Shostakovich, come in tanti sapranno, insomma, è passato alla storia un po' per questo, fu non certo il primo e assolutamente non l'unico, però fu un'importante vittima della censura di Stalin. Sicuramente fu criticato e contrastato in maniera piuttosto pesante, ma del resto fu uno dei pochi superstiti, uno che insomma ha avuto anche l'intelligenza e la capacità di sopravvivere a quel periodo senza peraltro neanche scapparsene, cosa che io ammiro, devo dire, perché non era né uno Strauss che era troppo pavido e vigliacco per poter ammettere di essere Di fatto un contrario, nazista. positivo. Infatti, non, lui non diceva né sì né no, E quindi era perché sì. beh. No, invece Shostakovich è riuscito in qualche modo a essere assolutamente né ligio ai doveri di un bravo compositore in quell'epoca, perché comunque riusciva a dire quello che voleva dire, ma allo stesso modo riusciva a rimanere vivo e quindi e non è neanche appunto scappato come invece è successo in altre occasioni e poteva comunque andarsene da altre parti. Invece secondo me Che non quello era comunque facilissimo, però no, però diciamo ci poteva almeno non provare ci, sì, e non ci diciamo, ha non ci sono provato. testimonianze che ci abbia provato. No, infatti, ma io gli voglio dare fiducia, Ma io sì. voglio credere che non ci ha neanche mai provato e neanche mai pensato. Vabbè, Shostakovich pensato ci ha che pensato. se la colla nel nostro immaginario. Sì, che secondo me ci voleva provare. Sì, tratto interessante appunto, forse non è tanto, come diceva la Mari, indagare no, nel momento, poi nella censura diretta, che si sa benissimo quanto atroce fosse, più che altro capire come la censura ha influenzato la produzione di questo artista, e non tanto in quanto l'ha fermata in certi momenti, ma perché questo artista di fatto per generazione, per nascita, non appartiene più alle generazioni precedenti, come poteva essere appunto Rimskij-Korsakov o Mussorgskij, cioè legate ancora a un romanticismo, insomma, a un'impostazione appunto di un genere più vecchio, tra virgolette, ma in realtà per età anagrafica rientrerebbe nelle avanguardie, in quelle che si chiamano le avanguardie, e che in Europa stavano già portando avanti, cioè autori della sua generazione stavano già portando avanti già da anni, insomma, un tentativo di sperimentazione, di andare insomma in una certa direzione, non voglio arrivare da Schoenberg, ma insomma anche Stravinsky, eccetera, eccetera. Per cui diciamo che lui per età anagrafica sarebbe appartenuto a quella compagine, a quella corrente. Di fatto aveva in sé delle linee, il suo lavoro aveva già in sé delle linee molto, molto avanguardistiche, che però purtroppo non è riuscito mai a sviluppare a pieno, insomma, il loro potenziale, proprio perché, e vedremo perché, vedremo come, la sua produzione è sempre stata influenzata dalla minaccia della censura e di fatto poi dalla censura, per cui ecco, è interessante vedere come e quando ha potuto e come ha potuto, per non dire che poi certe opere sono venute alla luce soltanto dopo gli anni 60, quindi proprio hanno avuto un completo, ecco, insabbiamento, e lui stesso a momenti ha dovuto comporre di nascosto certe cose e alla luce farne altre, per cui insomma in realtà forse ecco l'aspetto più interessante del rapporto con la censura in questo autore è questo, cioè di quanto non sia riuscito a sviluppare purtroppo, appunto, quanto questo ha bloccato le potenzialità evolutive, insomma, della sua scrittura e della sua musica, appunto della sua scrittura musicale, scusate. Sì, per quanto poi in realtà Shostakovich, lo vedremo, ha avuto un enorme successo, oltre che dopo ovviamente, ma anche al suo tempo. Era un personaggio molto apprezzato un po' da tutti, il che poi insomma probabilmente è anche l'altra cosa che ha fatto sì che l'ha salvato, sì, che, no, che fosse di fatto un po' intoccabile, o perlomeno ci si poteva andare vicini e si poteva spaventarlo molto, ma insomma poi non se ne poteva fare a meno, non si poteva rinunciare a lui. Un primo pezzo che vi vogliamo far sentire è l'interludio a una Lady Macbeth nel distretto di Minsk. È illeggibile, c'ha tutte consonanti, cioè c'ha solo una vocale, come si fa a leggere questa cosa? Vabbè, chiamiamo da ora in poi per gli amici Lady Macbeth del distretto di Mchensk. Ecco, io lo pronuncio così e non me ne vogliano. Sicuramente i russi all'ascolto, che saranno tantissimi. Esatto. E, partiamo da questo perché appunto lui nel periodo precedente, comunque in questo periodo, siamo nel 1934, Shostakovich si avvicina moltissimo appunto a quello che veniva chiamato il teatro radicale e di fatto in qualche modo ne fa parte, sia il teatro che le musiche per i film, non so se... Sì, esattamente, in realtà la composizione per colonne musiche serve un po' a Shostakovich, diciamo appunto un po' tra virgolette da paravento, nel senso che lui rientra appunto in questa commissione di compositori che compongono per il cinema. Chiaramente si parla di un cinema che noi consideriamo d'avanguardia, come il cinema di Eisenstein, ma che era un cinema di propaganda per la Russia di quel periodo, quindi con delle grandissime, che ha un grandissimo valore artistico e tecnico, ma è di fatto un cinema di propaganda. Quindi lui aveva già nel suo DNA musicale un imprinting, perché fin da molto giovane suonava per mantenersi il pianoforte nelle sale di proiezione, come per colonna musica dal vivo, nei film muti. Quindi ecco, questo poi lo aiutò. Ma appunto in generale diciamo che lui si avvicina al mondo del teatro e quindi poi anche di fatto al mondo del cinema fin dalla fine degli anni 20, quindi diciamo dal 28, attraverso le musiche per l'opera Il Naso di Gogol, crea proprio le musiche di scena per questo, e tramite questo viene in contatto con diversi registi e da lì gli vengono commissionati altri lavori. Sì, tra l'altro il periodo questo qua era un periodo in cui il fermento che inevitabilmente era derivato dalla Rivoluzione d'Ottobre faceva sì che un personaggio come Shostakovich, che non si è mai spostato dalla Russia, comunque venisse in contatto con un sacco, certo, di influenze estere, perché di fatto erano loro che venivano da lui. perché c'era una sorta di pellegrinaggio curioso di tanti personaggi importanti del periodo culturale di quel momento, intellettuali che andavano a vedere artisti. Cosa succedeva in Russia, anche comprensibilmente, cioè. Insomma. E quindi lui riceve un sacco di influenze, tant'è che appunto era probabilmente nelle condizioni di poter dare il meglio di sé, probabilmente. E addirittura tra i vari con cui venne in contatto ci fu addirittura la rivista nera di Sam Wooding, Chocolate Kiddies, una rivista americana, che fece una tournée in Russia e andò a conoscere Shostakovich e lo fece in qualche modo entrare in contatto con il jazz, cosa che insomma non era proprio banale. No, scontata per l'epoca. E che poi lui se l'è rivendicata, visto che poi ha dedicato intere opere al jazz molti anni dopo, insomma. Sì, infatti, sull'onda di questo appunto fermento appunto iniziale culturale, buffo e paradossale, appunto, come poi un regime così, che sarà poi così rigido con i propri artisti, in realtà aveva inizialmente avuto una grande spinta, no? E soprattutto per la tradizione dell'amore per il teatro che la Russia aveva, per il balletto e via, abbiamo visto con Schiaccianosi e con Tchaikovsky proprio nell'altra puntata. Diciamo che attraverso quest'opera, le musiche di scena per il naso di Gogol, viene in contatto appunto, come vi dicevo, con diversi registi teatrali, tra cui questo Meyer Cold, che chiederà poi al compositore di scrivere altre musiche di scena, per esempio per lo spettacolo La Scimice. A Shostakovich vennero poi anche commissionate, diciamo, le musiche del film Nuova Babilonia, della coppia Kosinchev e Traubberg, che sono due registi che insieme a Eisenstein tra i più rinomati, insomma, famosi del periodo. I brani della colonna musica del film furono in realtà poi però criticati, non andarono bene inizialmente. Vedremo che questo succede spesso a Shostakovich, perché poveraccio di fatto non ne fa mai una giusta, cioè quando si butta troppo non va bene di là, allora troppo formalismo, insomma. Era un po' sempre a fare le pulce, era un po' sì. Diciamo, la première invece intanto del naso di Gogol, di cui avevamo parlato, si svolse a Leningrado negli anni 30, per darvi un po' un contesto del periodo, diretta da questo Samo Sud. Nonostante l'immenso successo, appunto, scrivono la critica, tranne rare eccezioni, non comprende in realtà l'opera nel suo reale significato tragico-umoristico che aveva, ma travisa completamente, e l'opera poi fu successivamente proibita e fu in realtà messa in scena soltanto 40 anni dopo, quindi anche qui il povero Shostakovich, insomma. Altri lavori, insomma, nel biennio 29-30 sono dei pezzi per altre musiche di scena, per Lo Sparo, che è l'opera 24, e per Terra Vergine di Sodata, opera 25 di Lvov. Ci sarà poi la colonna sonora del film Sola, opera 27, sempre per Traubberg e Kosinchev come registi, e i balletti L'età dell'oro, che sono l'opera 22, sul libretto di Ivanovsky, e che anche quello però è un po' un insuccesso, e questo Il bullone, opera 27. Negli anni successivi, in realtà, diciamo, viene alla luce la commedia La compagnia verde, Rule Britannia, e la colonna sonora delle Montagne Dorate, e di questo spettacolo Giustiziati con condizionale. Realizza anche le musiche dello spettacolo Amleto, una trascrizione della polca dall'Età dell'oro, e infine comincia a lavorare sull'opera Una Lady Macbeth nel distretto di Imchensk, a cui poi appunto facevamo riferimento per questo nostro primo ascolto. Sì, che era appunto un'opera che si inseriva in questo quadro che vi abbiamo appena fatto, e che a sua volta si inseriva in un quadro ancora più ampio, che era quello di un po' una virata di quel momento, del periodo staliniano di quel momento, perché se fino a a poco tempo fa, essenzialmente le opere culturali che sappiamo erano molto importanti per la Russia di quel momento, perché comunque dovevano sottolineare e enfatizzare la politica dell'epoca. Essenzialmente quello che la direttiva era: create, aiutateci a creare un'epopea, un grande certo. mito del proletario e della Russia rivoluzionaria. Sì, dell'uomo popolare che si immola e che si sacrifica. Oltretutto si sacrifica, non era una parola a caso, perché al tempo insomma si faceva la fame, c'era stata la rivoluzione, ma chiaramente era un'epoca molto difficile. Per cui si chiedeva al cittadino di immedesimarsi un po' in questa odissea, appunto, dell'eroe socialista che si ergeva a lottare contro il borghese e alla fine comunque vinceva e tutti erano felici e contenti. A questa fase iniziale, per cui tutte le opere dovevano tendenzialmente avere questo decorso, cioè tutte dovevano andare a finire così, cioè c'era più o meno sempre certo. un andamento, sì, magari di contrasto, perché comunque le opere russe sono sempre molto dense di contrasti bianchi, chiaro-scuro, però alla fine di tutto si arrivava a un lieto fine. Beh, glorioso. C'era una necessità di costruire un immaginario. Esatto, e questo era questo nuovo, più o meno il diktat. Nuova epoca, insomma. Esatto. In realtà da quel momento, in quegli anni più o meno, siccome di fatto non si stava un granché bene e iniziava a esserci un vento un po' sedizioso, la nuova politica più o meno era quella di, oltre a questo che abbiamo detto finora, che comunque va sempre bene, di aggiungere anche una rassicurazione che comunque si sta bene. Cioè, comunque il ruolo della cultura del periodo doveva dire sì, stiamo vincendo contro il borghese e stiamo anche bene, cioè non solo vi dovete sacrificare, ma vi sacrificate perché alla fine quello che vi diamo è benessere e comunque saremo tutti meglio. E alla faccia del raccontarsela. Esatto. A volte, no? Uno esatto. proprio se la racconta, ecco. E sì, quindi in un certo senso c'era questo sforzo veramente di un po' di immaginazione dove si doveva credere che insomma la vita stava effettivamente migliorando, si stava iniziando a andare bene, che insomma la ripresa era, oddio, mi sembra un po' di averle già sentite. Vero? Sì, è un po' ricorrono. Perché la storia è ciclica, lo sappiamo perfettamente. Sì. E tant'è che a un certo punto ci fu, durante nel 32, una riunione nella residenza moscovita di Gorky, che Stalin dichiarò questa frase un po' sibillina, disse che gli scrittori dovevano essere ingegneri dell'animo umano. E qui si aprirono, siccome era un po' un oracolo, lui diceva certo. queste perle, e tutti poi si interrogavano, ma che cazzo avrà voluto dire? E discussero un sacco gli scrittori su che cosa intendesse Stalin, insomma, anche perché dalla loro interpretazione poi derivava l'essere... Non è che era proprio... Insomma, sì, venivi fucilato se sbagliavi. Ecco. Dall'incontro emerse il concetto di realismo socialista, secondo cui gli artisti sovietici dovevano dipingere la vita della gente in modo realistico, ma al tempo stesso eroico, ponendosi dal punto di vista della futura realizzazione dell'utopia socialista. Queste cose che vi sto leggendo le sto leggendo dal libro che già a suo tempo vi ho citato, che è Il resto è rumore di Alex Ross, che è un libro che secondo me è veramente bello. Sì. E, imprescindibile, veramente. Sì. E vabbè, ci fu questo periodo qui un po' strano, per cui in realtà... appunto ha questo conflitto, eterna lotta, eccetera, lieto fine, si aggiungeva anche un dipingere alla vita di tutti i giorni come una vita tutto sommato riuscita, bella e in qualche modo appagante. Vabbè, certo, la rivoluzione non poteva ammettere appunto che su tanti punti aveva, in realtà stava già fallendo proprio per la sua stessa impostazione esatto. per come veniva portata avanti, e quindi di fatto bisognava comunque raccontarsi che il potere aveva, insomma, che era stato sostituito di fatto un potere con un altro, in questo nuovo funzionava, se no ovviamente non è che E di fatto che si è fatta a fare questo anche perché, insomma, per farlo c'erano stati grossi sacrifici umani, per cui ovviamente sacrifici umani non era proprio così, lapsus, però ci stava. questo rientra un po' poi nel perché poi la Russia si sia servita, insomma, il costruttivismo in arte, appunto Tatlin, Eisenstein rientrano poi in questo, cioè è perfettamente calzante poi l'uso del costruttivismo, proprio perché per esempio la corrente artistica del costruttivismo serviva perfettamente questo scopo, no? Cioè nella declinazione russa, ovviamente. Esatto, no, però, no, ecco, certo. Appunto Tatlin con le sue opere, Eisenstein con i suoi film, tutto andava appunto in questa gloria appunto del risultato, non era poi, siccome non erano stupidi come gli italiani, no. O egomaniaci pazzi come i tedeschi, riuscivano a dargli una sfumatura un po' più interessante, però quello era poi alla base, cioè sì, celebrare questo nuovo mondo in cui tutto stava riuscendo, in cui tutto era valso la pena e che quindi funzionava, anche perché doveva essere tenuto in piedi dalla gente, per cui insomma la gente per prima. Sì, cosa che peraltro ha funzionato, insomma, questa sì, cioè sì, ora non la vita, ha funzionato il meccanismo per sì, cui poi la gente poi ci anche credeva. Se non funzionava veniva imposto, per cui a un certo punto sì, sai, sì, alla fine l'arte può fare fino a un certo punto. Sì. E tant'è che cosa succede? Che in tutto questo climax, diciamo, Shostakovich scrive quest'opera che è appunto la Lady Macbeth, in quel distretto lì con il nome brutto, che apparentemente è perfettamente dentro questo spirito. Perché cosa succede? Era il periodo oltretutto in cui Stalin aveva lanciato la campagna contro una campagna d'odio contro i kulak, cioè contro i ricchi mercanti delle periferie russe. Insomma, campagna che poi ha dato, pare, 3 milioni di morti, quindi insomma, ma la campagna. Gli stavano antipatici, in certo punto. Sì. Era una campagna molto simile alla campagna che più o meno negli stessi periodi vedevano dipingere in altri posti, l'ebreo con naso adunco. Certo. In altri posti neanche troppo, anche in Russia, però vabbè. Sì, sì. Allora, cosa succede? Shostakovich scrive quest'opera. Quest'opera, la trama, era perfetta, perché era una donna che abitava in questo distretto di appunto, il distretto dei Kulak, quindi perfettamente sul pezzo. E lei, stufa di tutti questi uomini abietti, orribili, che la circondano, meschini, che sono anche molto caricaturati, insomma, certo, vengono proprio estremizzati. Sì, stufa, decide di sbarazzarsene una per uno e quindi inizia con il suo amante, aiutata dal suo amante, a ammazzare il padre, il marito, il fratello, insomma un po' tutti. E questa è questa opera, e tutto sarebbe perfetto, tant'è che l'opera ricevette un successo di pubblico incredibile, ottimo per l'epoca. Anche perché, insomma, sembrava proprio andare in quella direzione lì. Ti do il mio contributo per la campagna d'odio che stai facendo contro i Kulak. Perfetto. Se non fosse che in realtà l'opera è estremamente cupa e tutto in realtà ruota sulla il concetto dell'amore portato a un'estrema conseguenza e il fatto di questa donna completamente accecata dall'amore che la porta a fare di tutto. E questa donna in realtà non è vista come un'eroina nell'opera nella Lady Macbeth, è in realtà molto cupa, molto sinistra. Vabbè, anche perché non a caso ha scelto Lady Macbeth. Esatto. Non ha scelto, esatto, si parla di follia. Cioè, ha scelto Lady Macbeth perché Lady Macbeth, a parte un personaggio complessissimo, uno dei più belli della storia del teatro, uno dei migliori di Shakespeare, ma fondamentalmente, anche se con tutte le giustificazioni, anche se con tutte le sfaccettature, è un personaggio fondamentalmente negativo. Eh sì. Che non riesce a redimersi mai, proprio, cioè, fino a, se non attraverso la follia, attraverso la morte finale. Quindi, insomma, è un personaggio negativo, fondamentalmente. Infatti. Quindi lui non l'ha scelto, poi, cioè, i russi non l'hanno chiappata sta cosa. No, infatti, cioè, incredibilmente ebbe un successo incredibile. Ma perché ci volevano, anche lì, vedi, ci volevano leggere quello che volevano, cioè talmente certo. indottrinati che te leggi in un'opera quello che ci vuoi vedere. Quindi quest'opera poteva essere letta in due sensi: uno, lei che faceva la giustizia sociale di tutti i cattivoni, oppure in un senso più, per, cioè, più personalistico, più sentimentale, più intimista, cioè l'amore che lei aveva la porta all'estremo, cioè a far, quindi di nuovo lui furbo, cioè nel senso intelligente. Sì, lui è stato molto ambiguo due tagli, a riuscire a dare due tagli, uno che andasse bene per il pubblico appunto indottrinato e uno che invece, insomma, chi doveva capire aveva capito fondamentalmente. Non a caso quest'opera si chiama in altri modi, in altri momenti, non si chiama sempre solo Lady Macbeth, ma rappresentata in tipo a Leningrado 97 volte a Mosca e 83 volte a Leningrado, quindi pensate a quanto... E quest'opera si chiamava in altri, nella capitale a Mosca, si chiamava Caterina Izmailova, non si chiamava Lady Macbeth nel distretto di me. Quindi pensate proprio alla confusione, cioè nel senso alla voluta duplicità degli intenti, no? A come un'opera possa essere poi vista, letta in tante forme diverse. Eh sì, è un po' un esempio. E ora io non lo so, io mi fermerei qui perché abbiamo già parlato un sacco e vi farei sentire l'interludio appunto a questa Lady Macbeth e, che dura circa 10 minuti e poi vi racconteremo del fatto che comunque sia non tutti la presero bene. No, sì, alcuni la videro come una cosa bellissima, ma non tutti. Ma non vi sveliamo ancora niente, rimanete qui nel dubbio e nell'angoscia. La suspense. Sì. eccoci dopo la Lady Macbeth di cui vi parlavamo e iniziamo a raccontarvi, come vi abbiamo un po' anticipato all'inizio, del perché non proprio a tutti piacque questa composizione famosissima e apprezzatissima invece da molti, ma non per tutti, ecco, per molti ma non per tutti. Per molti ma non per tutti. E poi times are changing, per citare, esatto. Quello, e via, e via così. Sacchione di Bob Dylan, però era un po' così, perché insomma qui c'è un po' un giro di vite a questo punto. Perché sì, tra l'altro sembrava che la massima aspirazione del momento per chi portava in teatro un'opera fosse che a un certo punto Stalin, senza dire niente a nessuno, sbucava Ale. E si sedeva nel suo palchetto d'onore e dava la benedizione. E poi sì, non è che poi lui si scomodava a dire sì, mi è piaciuta, non mi è piaciuta. Intanto c'era venuto. Però se c'era venuto voleva dire. Stiamo un pezzo avanti. E quindi Shostakovich pare che insomma ci aveva sperato un sacco. Lui non si fece quasi mai vedere, cioè non sarà mai visto. A un certo punto arriva di nascosto e va via, come è arrivata va via, non si sa bene cosa abbia detto, cosa non abbia detto. Fatto sta che il giorno dopo appare un articolo anonimo sulla Pravda, ecco, che lo stronca. E non buttava bene, non gliela, forse il vecchio Stalin se l'era ammascata un attimo, il polpone qual era, paranoico, si era ammascato di questa doppia natura e aveva detto, ma che fai, mi pigli in giro, che siamo scemi qua. Che pensi, insomma, che non me ne sono accorto? Che proprio Macbeth. Che vogliamo fare, Stakovich? Non è che siamo scesi alla montagna del sapone, come diceva mio nonno, ma qui insomma, o riportati dalla piena, ecco, un'espressione sto per usando. Per cui diciamo che il primo dicembre del 34, probabilmente per ordine di Stalin, non ci stupiremo, fu ucciso Kirov, il responsabile del partito dei compositori. Questo partito dei compositori che si era creato appunto come apparato, gli succedette un più fedelissimo Zdanov, che iniziò una campagna di irrigidimento della produzione, nella produzione artistica in generale. Ecco, nel 35 appunto intanto l'ala di Macbeth continuava a ottenere grandi successi, soprattutto veniva rappresentata all'estero, quindi a New York, a Filadelfia, a Buenos Aires, Praga, Stoccolma e via e via. Forse anche questo era stato un po' il motivo di irrigidimento di Stalin, perché sì, probabilmente si era sentito un po' sfuggire dal controllo quest'opera, che sai, finché stava in Russia e la vedevano in Russia ancora, ma insomma all'estero c'era qualcuno che l'avrebbe potuta leggere appunto nella sua doppia natura. Quindi fu questo, chissà, lo dico io da complottista, potrebbe essere. Intanto diciamo che Shostakovich continua la sua produzione, compone un terzo balletto, il famosissimo Un rivo chiaro, opera 39, che noi poi sentiremo, è uno dei nostri ascolti. Una nuova colonna musica per il film La giovinezza di Maxim, opera 41, primo di una trilogia, sempre della famosa coppia tra Odberg Kozinchev, che vi citavo, appunto due famosi registi russi, e Amiche, opera 41 di Arnstam, regia di Arnstam. Oltre che del cartone animato, molto interessante questa cosa, musicò un cartone animato che si chiama Il racconto del Pope e del suo servo Balda. Inoltre sono dello stesso anno i 5 frammenti, opera 42, dei brani avanguardistici che servirono al compositore, diciamo, da banco di prova per quello che è uno dei suoi più grandi lavori, la Quarta Sinfonia, di cui poi parleremo, perché è importante. Qui, appunto, come diceva la Maria, la presenza di Stalin alla rappresentazione di Lady Macbeth probabilmente avvenne il 28 gennaio del 36, poi ci sono altre fonti che l'anticipano di un mese, ma e probabilmente al Teatro Bolshoi, se non sbaglio. Sì, sì. Vero? Alcuni raccontano appunto che lui avesse abbandonato la sala già al primo intervallo. Sì, quindi non si capisce bene, c'è un po' di mistero su questa cosa, su chi dice che se n'è andato prima, se chi se n'è andato dopo, vabbè. Altri dicono che rimase fino alla fine, sghignazzando con i suoi accompagnatori. Insomma, certo è che non avesse invitato il compositore nel suo palco e che questo fosse stato segno di, insomma, di non aver gradito. Sì, pare che Shostakovich ci rimase molto male di questa cosa. Anche perché più che rimanerci male non era un segnaccio, insomma, lì non è che si scherzava. E non è che lì i gusti sono gusti, no? Lì non era così. Appunto, come dicevi, Maria, nel gennaio del 36 apparve sulla Pravda un articolo anonimo intitolato Caos invece di musica, che stroncava l'opera definendola caotica, apolitica, pervertita. E chi più ne ha più ne metta. La denuncia inaspettata, la denuncia appunto era inaspettata, visto il grande successo che in realtà l'opera aveva avuto, e provocò la cancellazione addirittura del lavoro dai programmi sia a Mosca che a Leningrado. Sì, tra l'altro, essenzialmente anni dopo, sempre su questo libro che vi cito di Alex Ross, c'è scritto che, vabbè, anni dopo venne chiesto alla Pravda di rendere, dall'allora direttore della Pravda, di rendere conto un po', ma parecchi anni dopo, quindi insomma ne poteva parlare con più tranquillità, del perché si scelse di attaccare così apertamente Shostakovich in un momento poi in cui insomma invece era all'apice del successo. E lui disse una cosa curiosa, secondo me, perché lui disse Shostakovich era il più famoso. Cioè, essenzialmente inizio il discorso dicendo da qualche parte dovevamo pur cominciare, e questa già basterebbe come spiegazione. E poi dice, Shostakovich era il più famoso e un attacco contro di lui avrebbe avuto immediate ripercussioni, costringendo i suoi emuli nella musica e in altri frangenti a drizzare le orecchie e a prestare attenzione. Inoltre, Shostakovich è un vero artista e in lui c'è qualcosa di geniale. Vale la pena combattere per un uomo del genere? Vale la pena di salvarlo? Cosa che secondo me è molto interessante, perché non è la banale sei un nemico del popolo, ti dobbiamo far fuori. Ma ti salvo da te stesso. Sì, cioè è proprio una rieducazione, cioè è molto subdola, molto più subdola di tanti di come hanno fatto in tanti altri, insomma, che invece erano più grezzi. Alla fucilata alla buona, cioè lì era molto più ma no, ma sei tu che non hai capito, e insieme possiamo arrivare alla soluzione, cioè insieme se ne discutiamo tu puoi arrivare a capire che stai sbagliando e che appunto ti devi salvare da te stesso e puoi diventare meglio di così perché sei un genio e vali. E quindi insomma la cosa era molto complessa e secondo me denota un mondo anche piuttosto interessante, che non si può schematizzare con la semplice certo. Dittatura, regime, nemico del popolo e via e via. Insomma, era vabbè, la realtà storica è sempre più sfortunatamente molto più sfaccettata di quella, e poi soprattutto per quanto riguarda poi i rapporti con l'arte. Eh beh sì, certo è che Shostakovich reagì in maniera piuttosto intelligente e fredda, nel senso che invece di andare completamente in paranoia, come penso avremmo fatto chiunque di noi, lui prese... Stai urlando, sì, cioè, fatto giustamente. Io. Praticamente telefonò all'amico Glickman e gli chiese di abbonarsi a un servizio di rassegna stampa in modo da poter monitorare tutte le menzioni del suo nome. E nel giro una di tre di Google Alert. Esatto. Il feed RSS. Si era fatto il feed RSS. Grande. Nel giro di tre settimane aveva accumulato 78 pagine di invettive. Comunque. Che studiò in silenzio, immagino, in maniera un po' cupa nella cameretta. E quindi insomma, effettivamente la cosa interessante, non solo chiaramente questo attacco a Lady Macbeth fu un po' all'inizio, ma poi dopo si sviluppa meglio tutta la critica successiva. Effettivamente non era tanto interessante colpire Shostakovich, ma provocare una reazione in chi gli stava vicino o anche chi non gli stava vicino, perché furono studiate soprattutto le reazioni pubbliche di quegli intellettuali che magari neanche più di tanto avevano mostrato interesse verso Shostakovich, che però di fronte a questo attacco pubblico, soprattutto dopo l'attacco invece a Rivochiaro e insomma le altre opere successive, mostrarono, però insomma dai, ora non esageriamo, poi Shostakovich, gli mostrarono un certo appoggio e si attirarono così delle ire veramente molto più pesanti di quelle che ha mai attirato invece Shostakovich. Serviva un po' da cartina di tornasole, insomma. Esatto. Fondamentalmente. Sì, volevo aggiungere che pochi giorni dopo appunto la famosa pubblicazione sulla Pravda, il giornale pubblicò anche articoli contro Rivochiaro, che è appunto l'opera seguente, esatto. Che è molto molto famosa, celeberrima. E composizioni come il concerto per piano, i preludi, insomma altre composizioni di quest'autore furono stroncate nei dibattiti della Lega dei Compositori a Leningrado e a Mosca, che immagino fossero poco pilotati, insomma. No. Quindi diciamo c'è proprio a questo punto un giro di chiave, una stroncatura anche in retrospettiva sui lavori di Shostakovich. Per mantenere il loro prestigio, diciamo, molti non contraddissero la posizione del regime, anche altri artisti vicini a lui, come diceva la Maria, appunto proprio per non scoprirsi, non contraddissero mai questa posizione, tra cui Solentirsky, Asaf, insomma. Dalla testimonianza poi in realtà qui c'è un po' una doppia teoria, una appunto che lui avesse reagito in maniera così appunto furba, però poi si dice, insomma, c'è anche un'altra teoria che dice che Shostakovich in realtà si fosse per lì, insomma, soprattutto dopo quando cominciarono a censurarli anche Sì, dopo arrivò il peggio. Ecco, quando arrivò il peggio, lui proprio addirittura sembra che volesse suicidarsi, insomma, sì, eccetera. Sì, perché quindi, secondo me se la viveva proprio, ma al di là della paura, cioè, ovvia, ma vabbè, se la viveva poi lì c'è anche con conflitto carrieristica, cioè del lavoro, del giudizio sul lavoro, poi. E a questo punto appunto aveva dubitato proprio, insomma, aveva avuto dubbi sull'esistenza, ma Stalin stesso, in un incontro col compositore che sembra fosse avvenuto almeno una volta, minimizzò le accuse degli articoli e consigliò a Shostakovich: ma perché non approfondisci più le canzoni popolari, su, ma sì, insomma, che ti vuoi suicidare qui, cioè, al pop. Ma sì, insomma, buffo, perché bellino, lui gli fa venire la paranoia e poi gli dice no, ma è tutto a posto, grande, sì, classico, molto classico da tortura proprio perversa, no? da doppio binario, sì. Chissà, poi non siamo sicuri che questo sia avvenuto, però insomma ci sono queste testimonianze, direi che ci può sta. Sì. E ci ascoltiamo, io direi, quest'altro estratto dal Rivo Chiaro, viene tradotto in vari modi, Limpid Stream, ma potrebbe essere Rivo Chiaro, il fiume limpido, viene tradotto, ognuno lo chiama un po' come gli pare. Comunque è l'opera 39, e quello che sentiamo ora è un estratto dal terzo atto, proprio un minuscolo di 2 minuti, perché avevamo troppi ascolti da farvi sentire, se no. E poi ritorniamo subito e continuiamo a parlare male di Stalin. Thank you. non gli era piaciuto tutto questa cosa, la definivano caotica, un rebus, l'hanno definito in vari modi, insomma, comunque non ci avevano capito molto e questo fatto di non capirci molto non gli piaceva, insomma. Effettivamente era un periodo bruttino, ecco, diciamo, in quel momento lì, appunto, Shostakovich, già soltanto il fatto che è rimasto vivo ci fa capire che palesemente non era lui il bersaglio numero uno, ma che aveva intorno, sì, personaggi anche a lui molto, molto vicini. Tra le varie, i vari estratti che, cioè le varie reazioni suscitate alle critiche verso le opere di Shostakovich, ce ne sono gran parte, in realtà andavano essenzialmente a minimizzare la critica, ma non come faceva Stalin dall'altro lato, dicendo sì, vabbè, però insomma che avrà fatto mai, insomma sì, non hanno capito, eccetera. E quindi entravano più o meno nel merito della questione artistica, se era giusto o no, se era giusta o non giusta la critica che gli veniva mossa. Ce n'erano alcuni che invece andarono diretti al punto, come ad esempio Abraham Lesnev, che era uno scrittore dell'epoca, che disse: la cosa orribile di ogni dittatura è che il dittatore fa tutto quello che gli dice di fare la gamba sinistra. Siamo come Don Quixote, sempre a sognare finché la realtà non ci risveglia bruscamente. Considero l'incidente di Shostakovich come l'avvento dello stesso ordine che, tra virgolette ordine, che in Germania brucia i libri. Ecco, e questa frase non fu proprio presa bene. No, lui era un po'... Pare che la condanna, insomma. Sì, pare che nel rapporto che venne fatto, appunto, che prendeva nota ovviamente di tutte le reazioni a questa vicenda, una nota a piè di pagina in questo rapporto ci dice che qualcuno cerchiò il suo nome e tracciò due spunte accanto ad esso, e a causa di vari errori ideologici, due anni dopo, nel 38, venne fucilato Lesnev. Quindi, tanto per dire, non andò particolarmente meglio a tanti altri. Un caso abbastanza, vabbè, per esempio c'era Elena, oddio, c'è un nome difficile, Konstantinovskaya. Ecco. No, ottimo, invece mi sembra. È dura. Mi è andata bene. Quattro righe dura questo, vabbè. Hai sudato. Ecco, lei era la traduttrice, molto amica di Shostakovich, pare che fosse una sua amante che aveva provocato la sua crisi matrimoniale nel 34, insomma. Lei ad esempio fu arrestata e tenuta per un po' di tempo in carcere. Galina Serebrakova, che anche lei era un'altra che aveva osservato attentamente Shostakovich durante il lavoro alla di Macbeth, insomma, amici e penso piuttosto fraterni. E lei nel 36 fu mandata in un gulag in cui rimase praticamente per 20 anni. Lo stesso cognato, la suocera, la sorella e lo zio di Shostakovich furono incarcerati sempre in quel periodo. Morì Gorky, come è noto, in circostanze misteriose. Insomma, non era proprio un bel periodino. Uno dei destini più sinistri, più cupi, toccò a Tukhachevsky, che era... Tukhachevsky in realtà era un eroe dell'Armata Rossa, un eroe... Sì, che era stato mandato a combattere i contadini antibolscevichi e che tra l'altro pare... Insomma, si fosse macchiato di abbastanza... Insomma, un boia, però. Sì, aveva fatto un lavoro un po' brutale con i gas, amava i gas, e quindi era stato, insomma, innalzato come eroe della rivoluzione, del popolo. E però Tukhachevsky, in realtà, oltre a questa sua carriera, era anche un grande appassionato, ma sincero appassionato di musica, un costruttore di violini anche, e lui era un sostenitore e un amico anche di Shostakovich. Shostakovich fu sufficientemente furbo da non accostarglici troppo, perché evidentemente capì che non era proprio il caso, ma di fatto, ad esempio, durante questa vicenda lui lo sostenne, scrisse una sua lettera, pare sudando mentre la scriveva, dove difendeva il compositore, insomma, andò in suo sostegno. E il problema è che a un certo punto Tukhachevsky, che era, pare che Stalin, appunto paranoico, come diceva prima Virgi, lo vedeva come un personaggio pericoloso, era un rivale di fatto, troppo indipendente e anche troppo carismatico. Tukhachevsky fu arrestato nel maggio del 37, quindi sempre in quegli anni, e nella camera di tortura confessò il suo coinvolgimento in un immaginario complotto per rovesciare Stalin, le cui prove furono, pare, in parte fabbricate dalle SS di Hitler. Decenni più tardi, quando il testo della confessione fu ritrovato, su varie pagine erano visibili macchie di sangue. Questo era il lavoretto pulito, come si suol dire. Sì, sì, sterile proprio, coi guanti. Questo era il periodo in cui si muoveva Shostakovich e in cui ricevette queste critiche, insomma, che erano critiche, vi lasciamo immaginare, che esatto, non erano così. E dopo la morte del maresciallo Tukhachevsky, del già citato regista Meyerhold, che ho citato all'inizio, no? Che fu uno di quelli che poi lo introdusse nel teatro, e del musicolo Ziliyev, insieme a loro vennero uccise poi chiaramente tutte le loro rispettive famiglie. Nel 1937 il nostro fu nominato professore di composizione al Conservatorio di Leningrado, quindi insomma una carica importante, e compose la Quinta Sinfonia 47, quindi insomma siamo un po' più avanti di dove, sì, dove eravamo. Per tornare appunto ai nostri ascolti, abbiamo ora una... Sì, i cinque frammenti. Sì, dei frammenti sono un'opera precedente alla Quarta Sinfonia, cinque frammenti, opera 42, che sono dei brani piuttosto avanguardistici che servirono al compositore da prova per quello che poi sarà uno dei suoi più grandi lavori, cioè la Quarta Sinfonia. Sì, ve li facciamo sentire tutti, dura all'incirca 10 minuti, opera 42, cinque frammenti per orchestra. Thank you. c'era il doppio finale, non sapevo se era finito, se non era finito. Sì, questi erano i 5 frammenti per orchestra, l'opera 42, di Shostakovich ovviamente, e quello che vi andiamo a far sentire adesso invece sono gli ultimi due pezzi, sono le due risposte, quelle vengono considerate le risposte alle critiche che vengono mosse a Shostakovich. La prima è la sinfonia numero 4 in Do minore, opera 43, e la seconda è la sinfonia numero 5 in Re minore, opera 47. Di entrambe faremo sentire ovviamente un estratto, perché non possiamo farvele sentire tutte, ma insomma, se vi interessa andatevele a sentire, che ovviamente si trovano ovunque. Allora, la prima risposta fu subito dopo la critica uscita sulla Pravda, quindi il primo casino che successe, il primo momento di panico. E Shostakovich stava già scrivendo in realtà questa sinfonia, la sinfonia numero 4, quindi non è che poi di punto in bianco decise di scrivere questa sinfonia, in realtà era già iniziata. Tra l'altro una sinfonia che pare risenta un sacco dell'influenza di Mahler di quel periodo, e vabbè, quindi tant'è, aveva già un suo corpo insomma questa sinfonia. Però in realtà dopo la critica della Pravda, che per tutte le ragioni che abbiamo detto finora insomma venne presa da Shostakovich non certo con leggerezza e anzi con un certo grado di ansia e angoscia, questa sinfonia prese un po' un'altra piega. Pare appunto che lo stesso Shostakovich anni dopo ebbe incoraggiato questa interpretazione secondo cui questa quarta sinfonia fosse poi una risposta diretta alla critica, però insomma non si sa poi se è vero o non è vero. Lui disse anni e anni dopo, disse: le autorità le hanno provate tutte per spingermi a pentirmi e a espiare il mio peccato, ma io mi sono rifiutato di farlo. Allora ero giovane, nel pieno delle forze, e invece di pentirmi composi la quarta sinfonia. La quarta sinfonia essenzialmente è strana, anche lì è una risposta ambigua e sibillina, come faceva Shostakovich, cioè apparentemente è una sinfonia che sembra perfetta, perché è una di quelle opere gloriose dove si celebra appunto un conflitto e una lotta che poi si risolvono in una tensione finale positiva e un lieto fine finale. Quindi sembrerebbe, a prima vista potrebbe essere una risposta di tipo: no, ma io non c'entro niente, anzi mi conformo, mi adeguo. Sì. Se non fosse che in realtà questa tensione non si risolve mai veramente, per cui c'è una continua lotta, un continuo braccio di ferro, contrasti eccetera, che non vengono mai veramente risolti e che anzi si scontrano, addirittura ci sono proprio delle continue lotte nella partitura, proprio di note, che si scontrano continuamente con lo stesso accordo di dissonante, per esempio. Ora questo non è che lo dico io, perché sennò non sarei mai in grado di dire una cosa del genere, ma perché lo cito sempre dal libro famoso, la Bibbia di Alex Ross. Quindi anche formalmente nella sua composizione presenta questi... appunto queste profondità, queste sfaccettature. Era una sorta proprio di esplicitare un scontro che poteva a prima vista sembrare lo scontro del proletario contro la borghesia. Quindi del bene contro il male. Sì, nella realtà dei fatti era invece lo scontro del suo contro la burocrazia e contro questo solito accordo dissonante che tu provavi a uscirne, a fare qualcosa, a risolvere, e tutte le volte ti scontravi contro questo ingombrante e opprimente accordo dissonante. E tant'è che insomma la quarta sinfonia non ha niente di glorioso e edificante, insomma, poi alla fine. Quindi anche qui un'altra volta, un po' come nella Lady Macbeth, questo doppio binario, no? Questo scenario apparente che nasconde invece a una seconda lettura, forse più attenta e forse anche un po' ai più addetti ai lavori, in un certo senso, in questo caso. Sì. Insomma, un altro intento, una costruzione un po' più che ha problematizzato, ecco, l'estetica musicale in un certo senso. Sì, diciamo che probabilmente, insomma, da un lato un personaggio come Shostakovich non ci si può aspettare una risposta chiara quando la sua poetica non è mai stata chiara, nel senso lui non ha mai scritto opere facilmente intellegibili, quindi è anche chiaro che qua è il suo modo di esprimersi, quindi anche quando deve dare una risposta non ti darà una risposta ovvia, ti darà una risposta a modo suo. E quindi è chiaro che anche questa risposta è in qualche modo ambigua, ma ambigua in un modo, appunto, non alla Strauss, ambigua... Ambiguazza. Ambiguazza, ambigua in un modo invece più profondo, più interessante, insomma. Certo. Sì, e poi decisamente più interessante. E non so se... Direi che si può... La facciamo sentire? Sì. Allora, facciamo sentire questa sinfonia numero 4 in Do minore, opera 43. Vi facciamo sentire il secondo movimento, moderato con moto, che pare tra l'altro sia uno di quelli appunto che rappresentano meglio questo conflitto. La durata è all'incirca 10 minuti, 9 minuti e 30, e torniamo subito dopo. È un live, quindi c'è la gente che tossisce. Thank you. Thank you. Eccoci qua, dopo questa sinfonia numero 4 in do minore, opera 43, secondo movimento abbiamo sentito, e, vi lasciamo un po' con l'ultimo pezzo che conclude un po' questo nostro intervento sul periodo di Stalin, essenzialmente. Ci fermiamo lì, poi il resto, insomma, comunque diventa duro anche il resto, per cui poi magari lo riaffrontiamo. E infatti sì, dicevamo mentre a microfoni spenti che potrebbe essere interessante fare una seconda parte dove invece vi raccontiamo di quello che è successo dopo. Sì, per quindi non dalla seconda mondiale poi, perché qui ci fermiamo appena prima. Sì, sì, perché comunque insomma ce ne sono stati gli avvenimenti, ecco. Sì. Shostakovich era sempre lì al centro della scena. Sì, sì, è nato nel momento e nel posto sbagliato. O giusto. Momento giusto nel posto sbagliato. Forse sì, infatti. Dipende un po' dal punto di vista. E, quello che non abbiamo detto è che la sinfonia numero 4, questa che avete appena sentito, sì, era una risposta, ma venne ritirata perché lui scrisse questa bella sinfonia, la portò alla commissione politica, perché si faceva così, e nell'ufficio calò un po' il gelo e non si sa bene il contenuto della discussione. Fatto sta che quando uscì Shostakovich era completamente annichilito e depresso e decise di ritirarla e disse no, vabbè, non c'era una bella situazione, fare. No, non è proprio il caso, e la ritirò, e quindi non venne mai eseguita se non anni e anni e anni dopo. Invece nel 37, sempre a Leningrado, quando fu nominato professore appunto di composizione, esatto, che prima giustamente lo dicevi, conservatorio, esatto, quindi diciamo che inizia a ricomporsi un po' la frattura, sì, gli viene affidato una carica, quindi evidentemente insomma ci si può fare, già che non era finito in Siberia, era comunque un passo avanti, esatto, direi notevole. E quindi niente, viene a quel punto viene insomma, inizia a navigare di nuovo in acque un pochino perlomeno meno scure, e quindi compone ed esegue questa volta a Leningrado questa sinfonia che è la quinta, l'opera 47. E questa sinfonia è un'altra risposta, viene considerata questa volta la risposta compiuta in qualche modo, perché effettivamente poi insomma, si è potuta ascoltare in quel momento, e fu un po' un modo di una pacificazione, perché era un'opera canonica, cioè diciamo che ricalcava. C'era un cambiamento stilistico brutale rispetto alla precedente, che era appunto un po' di stampo più avanguardista. Sì, no? Quell'altra era, se veniva accusato di caos, ecco, nella quarta gliene dava giù parecchio di caos. E invece quest'altra fu il contrario, cioè la quinta seguiva il classico schema di quattro movimenti: moderato, allegretto, largo, allegro ma non troppo. E, che peraltro era la stessa schema della sinfonia 43, cioè del 47, cioè lo stesso numero di Beethoven, quindi diciamo era proprio anche una citazione neanche troppo velata, come a dire ok, mi attengo ai classici, ok, ritorno nelle righe. E infatti il lavoro essenzialmente venne ricordato come un lavoro che anche i più cioè un comune appassionato di musica, anche meno così acculturati, potevano comunque godere e potevano apprezzare. Infatti Stalin lo apprezzò e come voleva si dimostrò, esatto, e arrivò bene tutto quanto. Ma in realtà anche qui si cela un po' un doppio taglio, perché Shostakovich è uno da doppio fondo, da cassetto segreto, cioè c'è sempre, no? Sì, che stuzzica la nostra vena bella complottista. Bella questa metafora, proprio mi sono sprecata. Molto bella, veramente, sì. Veramente bella. Sì, un po' da spia, sì. Da matare. Ah, guarda, quando mi ci metto, sono un genio proprio. E, lui in realtà aveva fatto una sinfonia giudicata molto semplice, proprio per questo, soprattutto rispetto alle altre. E in realtà però quello che venne fuori, sentendo anche le reazioni sul momento, fu che datosi che quel momento lì era un momento veramente di paura, di grande paura e terrore nella cerchia culturale non allineata, diciamo. E qui vorrei citare, oggi la butto in caciara. No, fai bene. Scusate, oggi sono io veramente... Vorrei citare Kattivik, terrore e raccapriccio. Giusto. Scusate, e infatti era il periodo di terrore e raccapriccio. E dice che appunto la gente giustamente insomma non stava presa bene. E questa sinfonia di fatto fu vissuta come un momento liberatorio, di pacificazione, di... in qualche modo di voler ricomporre le fratture, ma non in senso, non so come spiegarlo bene, cioè non nel senso volemose bene, siamo tutti amici, nel senso, vabbè, ripigliamoci un attimo e dopo tutta l'angoscia che viviamo tutti i giorni, ora ci ascoltiamo qualcosa di bello, di semplicemente bello, senza nessun'altra implicazione. E che però, insomma, di fatto fu anche un modo per rientrare dalla finestra. Beh sì, ma anche per rinfacciare, cioè non so, per dire sì, quindi finora siamo stati una merda e abbiamo bisogno ora di, certo, ovviamente, di ripigliarci. Se hai bisogno di dire che ti devi sentire bene, vuol dire che forse, ecco, tanto non è andata fino a quel momento. Sì, tant'è che insomma dice che le risposte emotive furono incredibili, la gente si mise a piangere, si strappavano i capelli, eppure è una sinfonia sommato molto semplice e piuttosto legata poi alla forma un po' tradizionale, no? Sì, cioè non doveva tendenzialmente suscitare questo tutto clamore, questo... evidentemente lo ebbe perché Shostakovich in quel momento era un simbolo, certo, ed era un simbolo che continuava a fare le sue cose come voleva lui, in qualche modo nei limiti, sempre chiaramente nei limiti, però in qualche modo riusciva a dare delle risposte. Sicuro era stato capace, insomma, qualunque cosa se ne voglia pensare, era stato capace di, ecco, di navigare questo mare piuttosto insidioso, e di rimanere a galla almeno fino a questo momento. Vedremo poi nella prossima puntata, scrivatelo. Sì, infatti vi lasciamo con la suspense. E basta, la puntata di oggi direi che l'abbiamo finita, se non hai altre cose da aggiungere che mi sto dimenticando. Beh no, ti rimanderei poi alla puntata, alla seconda parte, tutto quello che verrà dopo, diciamo sì, di sicuro qui c'è un punto di cesura, sia storico che insomma nella sua carriera, appunto subito dopo la quinta, appunto chiaramente la sua produzione continua, soprattutto anche la produzione di musiche per film. Il ritorno di Maxim, opera 45, I giorni di Volokhaevsky, opera 48, il distretto di Viborg, opera 50. Ah, sì. Insomma, continua una serie di... E un'altra opera, perché poi scrive una nuova opera, Le 12 sedie, basata su scritti di Petrovich Petrov. Ne parleremo poi magari, appunto. Sì, ne parleremo, parleremo anche del suo periodo jazz, sì, cioè del suo omaggio a jazz, eccetera eccetera. Insomma, tante altre cose da dire, appunto, magari affronteremo, sì, in un'altra parte. Infatti sì. E vi lasciamo quindi con l'ascolto della quinta. La quinta in re minore, opera 47, quindi, e siamo nel quarto movimento, Allegro non troppo, appunto. E vi salutiamo, vi lasciamo ciao la a tutti. Prossima domenica e basta, seguiteci sempre La Fuga del Gatto e sempre Radio Wombat. Ciao ciao. Ciao.